gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera, buonasera e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla, come sempre iniziamo la settimana alla grande. O no? Com'è andato il vostro lunedì? Io spero bene, ma spero di allietarlo soprattutto con questa puntata, con questo quarto d'ora sprint. Oggi ho un ospite speciale, un ospite che sposa appieno i valori di allineamenti, quindi i valori della condivisione e del desiderio di mettersi alla prova attraverso l'arte. E l'arte è proprio l'arte della poesia, quella che noi amiamo di più e che qui in questo programma celebriamo continuamente. Ed è una poesia che non è sola, ma è accompagnata. È accompagnata dalla sua chitarra, e dalla sua musica. Qui con me c'è Carlo e io lascio la parola a lui perché naturalmente si può presentare molto meglio di quanto l'ho presentato io. Buonasera a tutti. Il mio discorso è io sono musicista, autore e anche autore di poesie. A un certo punto, in occasione di un festival che anni fa mi è stato proposto di attivare un progetto di mettere in musica della poesia, e la poesia era quella di Maria Luisa Spaziani, Come una cattedrale, che è un componimento importante, un componimento particolarmente difficile, e quindi è stata una bella sfida. E quindi per me è stato il momento di iniziare fondere le mie due grandi passioni, che sono quelle della musica e della poesia. E ho cercato un percorso però diverso, ovvero di rendere in canzone i componimenti poetici, partendo dal fatto che la poesia, come ci viene proposta principalmente a scuola, è ostica e poco amata e di conseguenza proprio poco condivisa. E la poesia dovrebbe essere condivisione, i poeti riescono a cristallizzare le realtà della vita in poche parole, ma il condividere questo senso dell'esistenza è l'essenza della poesia. Quindi io ho cercato, attraverso la mia musica, di lasciare che la musica delle parole desse origine alla mia musica per le parole, cercando di fare qualcosa di valore, ma soprattutto qualcosa a livello di canzone, proprio perché possa essere condiviso e possa portare certi versi che talvolta non sono nemmeno conosciuti. Infatti la mia ricerca è stata quella di andare a cercare dei testi, sia dei classici sia di poeti meno conosciuti, ma soprattutto dei testi poco noti, delle parole poco note. Come in una cattedrale è stata, quella di partenza, e infatti ha una particolarità rispetto al resto del progetto. Il resto del progetto ha coinvolto varie figure poetiche e varie tematiche. C'è stato Eichmann, c'è stato Umberto Saba, c'è stato Dante, Antonio Pozzi, Ungaretti, ancora la Spaziani. Poi ho elaborato dei sonetti d'amore di Shakespeare, Camillo Sbarbaro, Cardarelli, Ugo Foscolo, Pasquale. Ultimamente sto lavorando su Cavafis e su Baudelaire. Il mio progetto, Poetry Music, or Music in Poetry, Project in Progress, è proprio fatto per il motivo che oggi le sensazioni che una poesia ti dà, letta oggi, ti può dare delle sensazioni, anche delle melodie, delle armonie musicali di un certo tipo. Non è detto che un domani possano sorgere delle nuove emozioni e di conseguenza anche delle nuove melodie. A questo punto direi possiamo ascoltare il brano di Maria Luisa Spaziani. Ecco, come dicevo, in questo brano, proprio perché il concorso prevedeva l'uso di la possibilità di rielaborare il testo a fine di canzone aggiungendo sillabe o strofe, oppure ripetendo a titolo di ritornello alcune parti, è stata fatta un'operazione di questo genere. Nelle operazioni successive invece sono stato molto più fedele al testo, per cui non ci sono spostamenti assolutamente, non ci sono appoggi di sillabe e soprattutto non vengono usati ritornelli, bensì si opera costruendo varie melodie in un unico brano. E questo forse è il bello, la difficoltà e l'operazione che spero possa piacervi. Mm-hmm. cattedrale, come in un ventre oscuro di balena. Mi risucchia un eco di mare e dalle grandi volte scende un corale antico che è fuso alla mia voce. Tu, scelto a caso dalla sorte, ora sei l'unico, il padre, il figlio, l'angelo, il demonio. Scelto a caso dalla sorte, ora sei l'unico, il padre, il figlio, l'angelo, il demonio. Evanescenti sogni, prima di entrare nella grande navata, vivevo lieta, ero contenta di poco, ma il tuo fascio di luce come un'immensa spada relega nel nulla tutto quanto non sei tu. Scelto a caso dalla sorte, ora sei l'unico, il padre, il figlio, l'angelo, il demonio. Scelto a caso dalla sorte, ora sei l'unico, il padre, il figlio, l'angelo, il demonio. Ecco, questo è il brano di Maria Luisa Spaziani, Come in una cattedrale. L'esperienza che ha avuto origine con questo, con l'elaborazione di questo brano, è stata molto importante, perché da un punto di vista musicale le esperienze di musica in poesia anche in passato sono state tante, sono state importanti, sono state espresse in varie forme. Talvolta però mi era stato fatto notare che si rischiava di o fare una sorta di tappeto musicale alla poesia, oppure cercare di andare sulla poesia con la poesia non ha bisogno del mio intervento. Io sono partito da questo presupposto. Il mio intervento deve essere un intervento, come ho detto all'inizio, di lasciare che la musica delle parole dia origine alla mia musica per la parola. E quindi il mio approccio è stato quello di nello studiare, nel cercare testi, nel leggere, nell'appassionarmi alla lettura poetica, lasciare veramente che sorgesse dentro di me, automaticamente, senza nemmeno lo strumento, una musica, ovvero la musica di questa, del componimento poetico che stavo leggendo. E in questo caso anche la stesura musicale, ma soprattutto poi la registrazione, è stata quella di cercare una sorta di essenzialità e di minimalismo, proprio perché il componimento poetico ha un valore in sé. Il valore mio deve essere quello di cercare un'altra forma di comunicazione, un'altra forma di emozione attraverso la mia musica, e spero di esserci riuscito. Ci sentiamo domani e come l'occasione sarà un'occasione importante in quanto ci sarà Dante Alighieri. Grazie Carlo, non vediamo l'ora di ascoltarti domani. E io invito ancora tutti voi radio telespettatori a continuare a seguirci sulle buonanotte di allineamenti dalla domenica al giovedì, sempre allo stesso orario, quindi questo quarto d'orino di prima della buonanotte, della mezzanotte, quindi il quarto d'orino della buonanotte. Anche domani ci troveremo qui con Carlo, vi invito a seguirci sui nostri canali anche social e a non esitare a scriverci se volete partecipare con la vostra arte. Quindi buonanotte a tutti, buonanotte allineamenti, porta la tua parte, questa era Ciao Radio Como. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.